Un abuso al giorno toglie il codice d'intorno. Di Roberto Galullo. Buongiorno e benvenuti all'ascolto di una nuova puntata. Vi ricordo la nostra mail unabusoalgiorno@radio24.it, il nostro sito radio24.it, il mio blog invece Guardie o Ladri, lo trovate con qualunque motore di ricerca o all'interno dei siti di Radio 24 e del sole24ore.com. Allora, la mail è stata raggiunta da una nostra radioascoltatrice del quartiere di Colognola nel comune di Bergamo. Allora, fra presente una cosa molto interessante che è stata già vissuta da chissà quanti cittadini che hanno e avevano le case in prossimità di aeroporti. Ricorderete che la stessa Malpensa, quando fu costruita, poi addirittura ebbe un'intera parte limitrofa nel comune di Lonate Pozzolo e Ferno, che fu proprio, come dire, svuotata, perché era impossibile che lì si potesse resistere al volo degli aerei da rumore, dall'inquinamento che producono. Allora, che cosa accade? Accade che a Bergamo ci sono dei cittadini, noi ne abbiamo appunto una che ci ha scritto, che continuano a lamentarsi per queste rotte che cambiano in continuazione, gli aerei che decollano a bassissima quota, l'inquinamento acustico, insomma, la situazione non sembra tanto felice. E noi per parlarne abbiamo chiamato proprio la radioascoltatrice Giusy Dossi, buongiorno. Buongiorno, dottor Galullo. Poi abbiamo chiamato a interloquire con noi, ma lo hanno fatto, poi lo sentirete attraverso una nota audio, la società SACBO, che gestisce appunto l'aeroporto internazionale di Oral Serio, e poi abbiamo chiamato l'avvocato Carmelo Calì, che è responsabile nazionale trasporti di Confconsumatori, ma è anche un rappresentante, un membro del comitato di tutela dei diritti dei passeggeri presso l'ENAC. Buongiorno avvocato Calì. Buongiorno, buongiorno a lei e agli ascoltatori e agli altri ospiti. Allora, io direi di partire da lei, Dossi. Che cosa succede? Non dormite più? Non dormiamo più. No, il problema è che da quando è stata cambiata questa rotta la situazione è diventata ancora più pesante rispetto alla rotta precedente, perché le nuove rotte tagliano praticamente il quartiere a metà. Nello specifico il quartiere è a 1800 metri dalla testata della pista, quindi può ben capire la mia casa in particolare e tutto il quartiere, anche la zona della Zanella, può ben capire che in fase di decollo gli aerei sono ancora bassi e quindi il rumore è veramente veramente fastidioso. Ma il problema non è tanto il rumore, il fastidio, ma è il danno e il problema della sicurezza, nel senso che a volte veramente sembrano che questi aerei entrino in casa, glielo posso assicurare, e abbiamo paura che prima o poi succeda qualche cosa. Beh, lei scrive all'interno della lettera, nella lettera lei dice: decollano in virata a circa 100-150 metri sopra la mia testa. Io è un'esperienza che francamente non auguro a nessuno. Se lei viene qua, non dico tutti, però spesso, specialmente poi quando passano gli aerei di DHL, sono veramente bassi e fanno molta molta paura. Io li vedo proprio alzarsi dal mio terrazzo e venire verso di me. Veramente, guardi, sì. Io non riesco a capire come si possa permettere in un paese come il nostro che queste situazioni avvengano, certo, senza che nessuno faccia qualcosa o, certo, perlomeno tuteli i nostri diritti. Allora, io intanto vi invito a visitare un sito che è Comitato Aeroporto Orio con due O, comitatoaeroportoorio.it, dove potrete trovare tutte le lamentele ovviamente dei cittadini di questo ed altri quartieri. Ricordiamo che il quartiere Colognola di Bergamo ha qualcosa come 5.000 residenti, quindi 5.000 persone vuol dire una cittadina media, perché le città d'Italia sono piccoli, i comuni sono piccolissimi. Ma voi avete cercato di parlare con la società aeroportuale? Noi abbiamo cercato di parlare con tutti, con l'istituzione, con i rappresentanti dei partiti politici. SACO non ci ha mai voluto ricedere e nemmeno abbiamo parlato col prefetto. Ma tutti dicono sì, è vero, il problema esiste, ma nessuno fa mai nulla. Va bene, allora sentiamo che cosa ha detto a noi la società che gestisce l'aeroporto di Orio al Serio. SACBO non può rispondere all'invito, trattandosi di argomenti che afferiscono non unicamente alla società di gestione dello scalo, bensì alla commissione aeroportuale, presieduta da ENAC, e in cui sono rappresentati tutti i soggetti coinvolti nella gestione e controllo delle attività aeronautiche, nonché i comuni dell'intorno aeroportuale. Le decisioni assunte all'interno di tale organismo sono orientate a garantire, insieme alla migliore efficienza e massima sicurezza dei voli, lo svolgimento e il rispetto di procedure orientate a determinare il minore impatto sul territorio in termini di rumorosità e inquinamento. Il lavoro della Commissione aeroportuale consentirà di migliorare ulteriormente la situazione, che nei mesi scorsi, con l'adozione della nuova rotta di decollo lungo l'asse autostradale, ha portato benefici risolutivi a circa 12.000 residenti della città di Bergamo. Eugenio Sorrentino, ufficio stampa SACBO. Allora, questa è la nota di SACBO, la quale sostanzialmente dice: non siamo soltanto noi a decidere, c'è un comitato, noi nei prossimi giorni cercheremo anche di metterci in contatto, di proseguire questo discorso che abbiamo avviato oggi con la nostra radioascoltatrice. Dice questo, poi dice che comunque gli standard di sicurezza sono garantiti, dice ancora che i benefici sono stati per circa 12.000 residenti con questa nuova rotta, 12.000 residenti di Bergamo, e che comunque, sedendosi intorno a un tavolo, si cercherà di portare migliorie. Allora, questo è quanto allo stato è. Dossi, prima di passare all'avvocato Calì, la convince questa difesa o comunque rappresentazione dei fatti oppure assolutamente? Allora, innanzitutto la Commissione aeroportuale doveva definire attraverso il VIA, aveva tutte delle determinate prescrizioni da fare dal 2003. L'aeroporto si è sviluppato senza che queste prescrizioni fossero state rispettate e quindi siamo giunti a questa situazione in cui sono state date delle concessioni a costruire abitazioni perché proprio i dintorni aeroportuali non erano definite le curve isofoniche. Non è vero che vanno lungo l'asse autostradale, perché venite a vedere, cioè voglio dire, non è che ce ne invento, siamo qua in 5.000, non raccontiamo bugie, passano proprio su, tagliano a metà il quartiere. Se va lei bene, vede anche no, ma è chiaro, è chiaro Dossi, praticamente, come dire, siamo veramente ad una visione completamente diversa. La cosa è appassionante, quindi dovremo andarci sopra su questa vicenda. Allora, richiamando SACBO e andando a vedere chi c'è all'interno del comitato, ma intanto noi abbiamo l'avvocato Carmelo Calì, che comunque è all'interno del comitato di tutela dei diritti dell'ENEC, che è uno degli istituti, degli enti che è stato chiamato in causa. Allora, avvocato Calì, commenti un pochino lei intanto questa situazione. Ma diciamo, innanzitutto mi pensavo che la società di gestione dell'aeroporto, visto che ha ritenuto non rispondere perché vi sono degli aspetti che non riguardano la propria competenza, ma che investono la competenza della Commissione, quantomeno rispondesse su quelli che erano gli aspetti relativi alla propria competenza. E certo, l'avremmo desiderato anche noi. In ogni caso non ha risposto. Indubbiamente è vero quello che il ruolo di questa commissione è che dovrebbe farsi una valutazione rispetto a quelle che sono le risultanze della commissione, cioè la commissione dovrebbe avere al proprio interno anche una competenza specifica tecnica in grado di entrare nello specifico tutte le questioni che sono state sollevate, perché indubbiamente qui ci troviamo non di fronte a un semplice cittadino che si lamenta, ma per quello che ho avuto modo di capire e di vedere si tratta di una pluralità di cittadini, addirittura dei cittadini che risiedono all'interno di un intero quartiere di 5.000 abitanti. Esatto, ma lei è anche come responsabile nazionale dei trasporti di consumatori, quindi voglio dire un ruolo anche da questo punto di vista, come dire, porterà avanti la vicenda, se ne occuperà insieme ad altre associazioni, ovviamente. Siccome io dico, ho sentito da quello che diceva la signora, che indubbiamente si sono rivolti a tanti, a quanto pare non trovano risposta. Allora, siccome c'è innanzitutto un problema tecnico, cioè queste questioni devono essere, a mio avviso, affrontate innanzitutto dal punto di vista tecnico per capire come stanno le cose. Allora, per quanto mi riguarda, nel momento in cui sono venuto a conoscenza di questa cosa, per quanto mi riguarda io chiederò proprio alla direzione aeroportuale dell'ENAC, dell'aeroporto di Orio al Serio, e manderò la lettera per conoscenza anche al direttore generale dell'ENAC, in cui chiederò di sapere quali sono le conoscenze a oggi, i dati, e questa commissione se ha completato i lavori, quando li completerà, che risultati ci sono già adesso, se si possono rendere noti, non si possono rendere note, perché secondo me questo è il punto di partenza importante per cominciare a dialogare su tutto. Benissimo. Questo, e affrontare nello specifico le questioni. Benissimo. Allora, noi siamo contenti di questo, avvocato Galì, perché ovviamente non si tratta di risolvere il problema di un singolo, ma di una collettività. Invitiamo ancora una volta tutte le parti a proseguire con noi questo dialogo, perché deve essere chiaro che è un dialogo costruttivo, come state vedendo, e quindi torneremo nel futuro su questa vicenda. Grazie ai nostri ospiti, grazie regia a Peter Bescapè, in studio Valeria Coffaro, Roberto Carullo vi augura una buona giornata.